Focus Economia. Le 17, 5 minuti, 54 secondi, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia, puntata che chiuderemo alle 18, non tanto perché sia un giorno di festa oggi, il giorno dell'Epifania, ma quanto perché a partire dalle 18 ci sarà uno speciale a tempo di sport dedicato alla giornata di campionato di oggi. I temi di cui parleremo, uno di questi temi lo accennava già il nostro giornale radio e già dai titoli, le parole del Presidente del Consiglio, insomma, le avete sentite, dice Silvio Berlusconi, non solo il varo del pacchetto giustizia, che è una priorità, ma anche riforme istituzionali della scuola e una riforma del fisco. Della riforma del fisco abbiamo già accennato lunedì, naturalmente una riforma abbastanza a lungo termine, perché ci vorranno consultazioni con tutte le parti sociali, con tutte le parti in causa, con tutte le parti coinvolte naturalmente, e poi perché il sistema fiscale italiano è un sistema fiscale molto complesso e quindi se bisogna metterci mano complessivamente, insomma, le cose diventano piuttosto complicate. Di questi temi, tra l'altro, oggi si sono occupati anche i sindacalisti, ne ha parlato Luigi Angeletti, ne ha parlato Raffaele Bonanni, noi ne discuteremo col presidente dei dottori commercialisti e vedremo di capire qual è l'idea di massima. Tra l'altro anche su un altro tema, perché dall'inizio di gennaio sono scattati controlli più puntuali sul fronte del redditometro, insomma si andranno a vedere anche cose nuove come per esempio le scuole private, le iscrizioni dei figli alle scuole private o addirittura le beauty farm, insomma di questo parleremo, come parleremo di economia internazionale per quanto vicina a noi, a partire dall'Islanda che ha deciso in sostanza di non pagare i suoi debiti, se così vogliamo dirla molto brutalmente, ossia di non rimborsare i correntisti della Gran Bretagna e olandesi per la ICESAVE fallita nel 2008. Parleremo anche della Banca Centrale Europea. Oggi un'intervista sul Sole 24 Ore al numero 2 della BCE, firmata da Beda Romano, che dice che la Banca Centrale non alzerà i tassi, e poi ha parlato anche della Grecia dicendo che la BCE non aiuterà la Grecia. C'è stata anche una risposta da parte delle autorità di Atene su questo fronte, e poi torneremo sul tema che abbiamo affrontato ieri in apertura, ossia l'offerta di Kraft per Cadbury. Oggi c'è stato un aggiornamento interessante, insomma le adesioni all'offerta sono all'1,5%. Quindi sostanzialmente, almeno per il momento, l'offerta è fallita. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve di questa giornata. Iniziamo come sempre dal petrolio che ha aperto in rialzo ad $81,86 al barile, parliamo della quotazione a New York, un guadagno di 9 centesimi, anche se poi ha ripiegato perché le scorte di greggio e benzina negli Stati Uniti sono aumentate la settimana scorsa. È calato ad $81,41 al barile dopo essersi portato sopra gli $82. Il Dipartimento dell'Energia americano ha comunicato che la scorsa settimana gli stock di greggio sono aumentati di 1,33 milioni di barili, quelli di benzina sono saliti di 3,74 milioni di barili, mentre i cosiddetti prodotti distillati hanno segnato un calo di 233 mila barili. E altre notizie, dati economici arrivano dagli Stati Uniti, l'indice dei mutui casa che indica in sostanza le richieste di mutui ipotecari negli Stati Uniti la scorsa settimana hanno segnato un rialzo dello 0,5% dopo essere crollate del 23% la settimana precedente. Le richieste di mutuo per l'effettivo acquisto di un immobile sono in realtà aumentate del 3,6%, invece le domande di rifinanziamento, con le quali in sostanza gli americani alimentano la propria liquidità, sono calate dell'1,6%. Sempre dagli Stati Uniti un dato interessante, che è l'indice ISM dei servizi, che monitora appunto l'andamento del comparto dei servizi negli Stati Uniti, salito a quota 50,1 da 48,7 di novembre, si evidenzia dunque una ripresa dell'attività. E sempre dall'America, in attesa del dato definitivo, di dati ufficiali, domani arriveranno i sussidi alla disoccupazione e poi venerdì invece ci sarà il dato vero e proprio sulla disoccupazione, c'è il sondaggio effettuato da ADP in cui si segnala che il settore privato americano ha perso 84.000 posti di lavoro a dicembre, un dato superiore alle stime degli analisti che avevano previsto una perdita di 75.000 posizioni lavorative dopo le 169.000 di novembre. Siamo all'Europa, gli ordini all'industria sono scesi del 2,2% in ottobre, parliamo non di tutta l'Europa ma dei 16 paesi dell'area euro, la diminuzione invece per quanto riguarda l'Europa nel suo complesso è stato dell'1,6%, in Eurolandia si era verificata una crescita in settembre dell'1,7% e nell'Europa dell'1,4%. I piani di sostegno alle banche iniziano a dare i loro frutti anche per quanto riguarda i bilanci degli stati e ci riferiamo in particolare alla Francia, perché il piano di sostegno al settore bancario durante la crisi ha fruttato lo Stato francese 2 miliardi di euro di interessi. L'annuncio è arrivato direttamente al Presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, durante il tradizionale incontro di inizio anno con le forze economiche nella regione della Loira. Il denaro così incassato, aggiunto Sarkozy, ha permesso di finanziare misure a favore dei più poveri e di raccogliere risorse sostanziali per investimenti. Sempre da Parigi arriva la notizia, questa è più una curiosità, però ve la diamo, insomma, secondo fonti giudiziarie, l'ex trader di Société Générale, Jérôme Kerviel, ve lo ricorderete, accusato di aver provocato perdite per 4,9 miliardi di euro a Société Générale, appunto svolgendo operazioni al di fuori del proprio mandato, dovrebbe essere mandato a processo nel settembre prossimo. L'udienza per stabilire la data esatta di inizio del suo processo è in programma per il 12 febbraio. Si diceva dell'Islanda, accennavamo all'Islanda, venerdì il Parlamento deciderà su un referendum in merito alla restituzione appunto del denaro ai correntisti inglesi e olandesi, perché la Costituzione islandese prevede proprio questo. Nel frattempo Standard & Poor's ha messo sotto osservazione l'Islanda per un possibile declassamento del rating. Il taglio al rating dell'Islanda potrebbe essere tra 1 e 2 punti entro un mese, dice l'agenzia. Attualmente Standard & Poor's assegna all'Islanda un rating in valuta estera BBB- e BBB+ in valuta locale, ora messo sotto appunto Credit Watch con implicazioni negative, che vuol dire che si avvia verso appunto un downgrade. Altro paese in grave difficoltà, ossia la Grecia, oggi arriva la missione europea, il premier greco Giorgos Papandreou si è detto ottimista sulla capacità della Grecia di superare la grave crisi, i numeri ve li abbiamo ricordati ieri, si parla di un rapporto tra deficit e PIL al 12,7% e l'obiettivo è entro due anni di portarlo sotto il 3%. Nel frattempo, come si diceva in un'intervista al Sole 24 Ore, Jürgen Stark, componente del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, e dice la partecipazione all'Unione Monetaria non consente alcun diritto a rivendicare sostegno finanziario da parte di uno Stato membro, chiudendo così di fatto le porte ad aiuti alla Grecia. Risponde Gheorghe Papakonstantinou, che è il ministro delle finanze, dice non ci serve alcun salvataggio. A proposito dei banchieri centrali e di difficoltà degli stati, si torna a parlare di Argentina perché la presidente argentina Cristina Fernández Kirchner ha chiesto la testa del governatore della banca centrale Martín Redrado, insomma ne ha chiesto le dimissioni, ma a quanto pare Redrado non ha alcuna intenzione di dimettersi. Qual è la storia? Che l'esecutivo, il governatore, avrebbe rifiutato di dare il via libera al trasferimento di fondi per 6 miliardi e mezzo di dollari dall'istituto di emissione al tesoro, risorse che sono da destinare al pagamento di una parte del debito estero, e quindi sempre di debito estero dell'Argentina parliamo. Ecco, per quanto riguarda invece l'Italia, ci sono delle indiscrezioni pubblicate oggi dal quotidiano La Repubblica, secondo il quale le previsioni del governo sulla crescita economica italiana migliorano, le stime dovrebbero essere alzate dall'attuale 0,7% ad almeno l'1%. Il Tesoro si appresta a modificare il programma di stabilità e crescita che dovrà essere consegnato a Bruxelles a fine gennaio. Qualche indicazione in questo senso nei mesi scorsi era già arrivata dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Altre segnalazioni di politica economica per quanto riguarda il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Secondo un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto segnare un vero e proprio boom dell'attività. Si parla di finanziamenti erogati per 4,5 miliardi di euro, un intervento a sostegno di 24.000 aziende. Quel che si legge appunto in una nota del Ministero che sottolinea come nell'arco dell'anno appena trascorso le domande di accesso sono aumentate del 103%, i finanziamenti richiesti sono cresciuti del 212%. Soddisfazione espressa da Giorgio Guerrini, presidente di Confartigianato, dice il fondo di garanzia ha dimostrato di essere uno dei più efficaci strumenti anticrisi. Notizie dalle aziende, solo un paio, poi andremo al primo tema di questa giornata. Fiat, notizie dalla Fiat che a quanto pare sta sviluppando una nuova piccola per il mercato indiano. Lo ha detto, secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, il presidente e amministratore delegato di Fiat India, Rajiv Kapoor. La nuova piccola, ha spiegato, sarà progettata a Torino e sarà più piccola della Palio. La società prevede di vendere 46.000 vetture in India, raddoppiando i risultati 2009 e esportando il 10% della sua produzione in loco. Infine la vicenda Kraft, come dicevamo, solo l'1,5% degli azionisti di Cadbury ha accettato finora l'offerta di Kraft. Nel frattempo il gruppo Hershey, a quanto si apprende, sarebbe diviso sull'offerta per Cadbury. Insomma, vedremo che cosa succederà e ne parleremo più avanti in Focus Economia. E adesso ci occupiamo di riforma fiscale. Bene, avete sentito nel nostro giornale radio le parole del Presidente del Consiglio. Anche Silvio Berlusconi dunque ha indicato la riforma del fisco come una priorità. Già lo aveva fatto il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti nella sua conferenza stampa di fine anno. Ne aveva parlato anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, indicandola come una riforma prioritaria nel suo messaggio di fine anno. Chi ci ha ascoltato sa che ne abbiamo parlato a lungo lunedì. L'idea di Giulio Tremonti, la traccia di lavoro, insomma, punta ad un sistema di bonus malus, trattamenti di favore come nel caso delle famiglie più numerose o della ricerca, e trattamenti di sfavore come per esempio nei confronti delle speculazioni o dell'eccessivo consumo dell'ambiente. Complessivamente un'idea di spostare il carico fiscale dai redditi personali ai prodotti, insomma qualcosa di un pochino più spostato verso l'IVA. Ma le novità fiscali di questo inizio anno, al di là di questa discussione che sarà lunga naturalmente perché vanno consultate tutte le parti sociali e il Ministro dell'Economia ha detto abbastanza chiaramente che ha intenzione di farlo, le novità fiscali sono anche altre, come per esempio una certa estensione del redditometro. Salutiamo Claudio Siciliotti, che è presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. E visto che è l'Epifania, buon anno a tutti. Buon anno anche a lei, Siciliotti. Allora, prima di parlare con lei, sono stati diffusi nel corso dello scorso fine settimana i dati che riguardano i redditi degli italiani. Non è che si sposti moltissimo, ma qualche cambiamento e anche qualche cambiamento interessante c'è. Insomma, crescono i redditi, più 3% nel 2009, la media sale a 19.110 euro, pari a 1.592 euro al mese. La Lombardia si conferma la regione più ricca, la Calabria si conferma la regione più povera. Sentiamo nel dettaglio quali sono questi dati. È un quadro con segnali di miglioramento, quello che emerge dai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2008 rispetto alla fotografia dell'anno prima. A scendere, infatti, è stato il numero sia di chi ha dichiarato un reddito inferiore a 15.000 euro annui lordi, sia di chi non è arrivato a 7.500 euro. A crescere, invece, coloro che si sono posizionati nella fascia tra 15.000 e 26.000 euro e oltre i 200.000 euro di imponibile, anche se in questo caso il reddito medio ha subito un deciso alleggerimento. In salita, e oltre un terzo del totale, chi ha dichiarato tra 15.000 e 29.000 euro e chi ha denunciato tra 29.000 e 55.000 euro. Più sottili le fasce di reddito più elevate. I ricchi, almeno sulla carta, non sono tantissimi. L'1,7% dei contribuenti totali ha denunciato nel 2008 tra 55.000 e 75.000 euro, mentre meno del 2% ha superato questa soglia. E il quadro che emerge dai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2008 è quello di un paese con profonde differenze territoriali. La Lombardia si conferma la regione più ricca d'Italia con 22.580 euro di reddito medio, mentre ultima è la Calabria con quasi 14.000. Lombardia in testa anche per le città. Quella con maggior reddito è Milano con quasi 31.000 euro, mentre fanalino di coda Catania con 18.600 euro di imponibile medio. Analizzando infine la variazione dei redditi denunciati nel 2009 rispetto all'anno prima, viene dal Mezzogiorno il dato più interessante, ossia un aumento dei redditi dichiarati molto superiore alla media nazionale del 3%. In particolare in Calabria l'incremento è stato del 6,4%, in Campania e Sardegna vicino al 5%, variazioni più contenute al nord. In Lombardia la media dell'imponibile 2008 è superiore del 2% a quella del 2007, in Piemonte dell'1,9%, in Veneto dell'1,5%. Allora, Claudio Siciliotti, poi verremo al cuore del problema, insomma la questione redditometro, la questione della riforma fiscale della quale oggi molti tornano a parlare. Prima le chiedo una battuta rapidissima su quello che abbiamo appena sentito nella nostra scheda. Noi abbiamo iniziato dicendo segnali di miglioramento, in realtà forse è più probabile che si tratti un pochino di recupero di evasione, insomma qualcuno che ha avuto paura dei controlli più stringenti e si è messo a pagare di più. Lei che dice? Anche essere questo, il miglioramento è molto lieve. Più che il miglioramento vedo la conferma di un meno 2% di contribuenti che superano i 70.000 euro, e questo francamente appare difficilmente comprensibile e credibile in un paese di sviluppo avanzato, e l'enorme divario territoriale che ancora separa regioni del nord come la Lombardia dalle regioni del sud come la Calabria. E questo mi sembra un dato significativo. Probabilmente su questo c'è da lavorare molto. Credo che la riforma fiscale, adesso io lo dico sorridendo perché di riforma del sistema fiscale se ne parla da troppo tempo senza che passi concreti siano stati fatti in maniera significativa. Noi abbiamo bisogno di un sistema trasparente, coerente e credibile, come non lo è e non lo è mai stato negli ultimi anni. E questo forse richiede una costruzione lunga, per la quale noi siamo disponibili a fare la nostra parte con i suggerimenti di chi sta sul campo, vive assieme ai contribuenti e ne conosce le problematiche forse meglio di quanto possono esserne osservate dall'esterno. Veniamo alle novità di quest'anno e iniziamo da qua, insomma, poi ritorneremo un attimo sul tema della riforma fiscale perché poi le due questioni sono collegate. Vorrei parlare di redditometro perché dall'inizio di quest'anno, se non erro, manca ancora la circolare dell'Agenzia delle Entrate con tutti i dettagli, però ci sono delle forti novità che tra l'altro qualche polemica l'hanno suscitata. Insomma, il redditometro che cos'è? È uno strumento che, guardando i beni e i servizi ai quali si accede, pensa in questo modo, ritiene di poter misurare il reddito. Tra i nuovi indicatori usati ci sarà l'utilizzo di Beauty Farm, i tour operator, le scuole private, le società di leasing, le case d'asta, la vendita di piscine, i noleggi d'auto. Prima c'erano navi e imbarcazioni da porto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore, collaboratori familiari, cavalli da corsa o equitazione, assicurazioni. Le sembra un buon passo, Siciliotti, questa aggiunta? Mi sembra un buon penso che sia posto al centro, come gli strumenti di contrasto all'evasione, sia posto al centro il tema del redditometro. È una sollecitazione che noi abbiamo fatto 2 anni fa, sta nel nostro programma di mandato. Noi dicevamo già quella volta: attenzione, più redditometro e meno studi di settore. 2 anni fa sembrava che l'unico strumento di contrasto all'evasione fosse lo studio di settore, che è sicuramente uno strumento utile, che non va messo in soffitta, ma ne va confermata, diciamo, la caratteristica indicativa di una capacità di reddito, non la caratteristica determinante di una capacità di reddito. Poi il redditometro, come dire, che come noto è una media, mi scusi, gli studi di settore che come noto sono una media, cioè riguardano delle approssimazioni che non colgono la realtà puntuale di ogni singolo contribuente, ma quella della classe a cui ciascuno di questi appartiene, è uno strumento di per sé stesso impreciso per sua definizione, e poi comunque è uno strumento che sindacalizza la discussione politica, perché indica in una parte del paese, segnatamente i piccoli e gli autonomi, i possibili evasori, mentre il redditometro è uno strumento, come dire, trasversale, democratico, riguarda tutti, autonomi e dipendenti e anche disoccupati, quando forse tanto disoccupati non lo sono in realtà. Il fatto di confrontare la ricchezza spesa, ma di ogni singolo individuo, quindi il dato puntuale, non il dato della classe di individui, credo sia un elemento importante e decisivo. In tutto questo ci si deve anche rendere conto che il progresso è andato avanti e probabilmente, dovendo andare a seguire non tanto la proprietà dei beni, ma la loro disponibilità, oggi i contribuenti dispongono di metodi sofisticati. Le grandi barche non appartengono più agli individui, ma alle società straniere, sono acquisite in leasing, si noleggiano, appartengono a ottuagenari, quindi vanno individuati i meccanismi più sofisticati, così come i bisogni più avanzati oggi si sono modificati rispetto a un tempo. Quindi ben venga lo studio di nuovi indicatori, rispetto ai quali nessuno deve vedere, come dire, una perversione discriminatoria. Tutti questi elementi o tutti questi beni indicano delle possibilità di ricchezza e come tale queste possibilità devono essere giustificate da tutti. A me pare che un grande dibattito sul redditometro possa essere quello che effettivamente ci aiuti a scovare l'evasione, e nei dati che lei ha citato c'è un dato sui quale tutti concordano e che non ci possiamo più permettere: circa 100 miliardi di evasione l'anno. 100 miliardi di evasione l'anno, per essere chiari, sono pari all'intera spesa sanitaria, sono più alti degli interessi passivi che paga ogni anno il nostro Stato sul debito pubblico, francamente 100 miliardi, se vogliamo, possono equivalere a circa 300 miliardi di imponibile, e 300 miliardi di imponibile sono quasi il 20% del PIL. Non possiamo permetterci di non perseguire e non attrarre imposte da queste disponibilità. Venendo al fronte della riforma fiscale, Siciliotti, noi lo abbiamo premesso e lo ripremettiamo: è sicuramente un processo lungo, perché il sistema fiscale italiano è stratificato in decenni di modifiche, macro modifiche e micro modifiche, quindi per cambiare un'intera struttura, insomma, ci vuole tempo. Un paio di direttrici il ministro dell'economia le ha date, ha parlato di questo sistema di bonus malus da una parte, e poi c'è il famoso riferimento al libro bianco del 1994, un passaggio dalle persone alle cose, insomma dalla tassazione personale, insomma sul reddito, alla tassazione sugli oggetti. Quali devono essere invece secondo voi i cardini di una riforma fiscale? Ma intanto i cardini, secondo me, devono individuare l'obiettivo finale. L'obiettivo finale non è un obiettivo che si ottiene domani, ma si ottiene con un percorso lungo e passo dopo passo, mattone dopo mattone, si costruisce però in quella direzione che è stata individuata come obiettivo finale. Usando uno slogan che abbiamo usato più volte, abbiamo indicato che per noi l'obiettivo finale deve essere quello di un fisco leggero con sanzioni pesanti. Quando parlo di fisco leggero intendo possibile nelle aliquote, sopportabile, sia pure improntato, come dice la Costituzione, a criteri di progressività, ma una progressività sopportabile e soprattutto sopportabile negli adempimenti. Però nel momento in cui il contribuente non fa il suo dovere, deve essere assolutamente, come dire, inflessibile e, mi permetta il termine, spietato nelle sanzioni. Io non ho la sensazione che il fisco degli ultimi 10-15 anni sia stato esattamente questo. Ho la sensazione che sia stato piuttosto il contrario, cioè un sistema con un fisco pesantissimo nelle aliquote e negli adempimenti, molto farraginoso da interpretare e quindi ostile al contribuente, ma al tempo stesso caratterizzato da sanzioni soltanto eventuali talvolta, con un'ampia possibilità di poterla far franca. Sempre parlando di numeri, noi abbiamo indicato con un dato che nessuno ci ha smentito e credo che sia valido. Noi abbiamo detto che la pressione fiscale di questo paese ha raggiunto il 50,6%, perché togliendo al denominatore della frazione con cui si calcola la percentuale di pressione fiscale, che è ufficialmente il 42,8%, togliendo, come dicevo, dal denominatore la stima del sommerso, perché evidentemente nella ricchezza prodotta, cioè la quota di sommerso non subisce evidentemente pressione fiscale, quel 42,8 schizza al 50,6. Ora mi dica lei che appeal può avere un paese che ha raggiunto una tassazione che è la più alta al mondo, dove lavorare onestamente significa pagare le più alte tasse al mondo. Evidentemente un paese che scoraggia a restarci e assolutamente scoraggia ad andarci. Non è questo che noi ci possiamo permettere. Quindi, secondo me, l'obiettivo finale è questo. I passi per avvicinarlo, io credo che vadano in questo momento alleggerite le tasse sul lavoro e compensate con un inasprimento delle tasse sulle proprietà e sulla rendita. Perché non credo che sia giusto che il lavoro sia tassato oltre il 50% e ci siano le rendite che siano tassate al 12,5%. Non mi sembra giusto, così come non mi sembra giusto una norma di cui si discute che è stata introdotta in via sperimentale per la zona dell'Aquila, cioè la cedolare secca sugli affitti. Una cedolare secca sugli affitti farà pure emergere una quota di evasione, ma cedolare secca significa pagare le tasse sulla proprietà al 20% quando chi lavora le paga oltre il 50%. Non è anche questo un buon segnale. Penso che un'altra direttrice su cui operare sin dall'inizio sia una strategia d'uscita dall'IRAP, che non è un'imposta alta, è semplicemente un'imposta ingiusta. Nessuno ama, però qualcuno l'ha introdotta e qualcuno non l'ha tolta. E quindi resta lì, sono un'imposta che oggi garantisce alle entrate circa 38 miliardi di euro e quindi non può essere abolita dall'oggi al domani, ma probabilmente può essere alleggerita nelle sue componenti più distorsive e sbagliate, penso al costo del lavoro, penso agli interessi passivi, e probabilmente va gradualmente sostituita con altre imposte che abbiano quella caratteristica di aggravio patrimoniale che aveva l'ILO, una delle principali imposte sostituite dall'IRAP, e che non ha l'IRAP, che significa semplicemente un aggravio del lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente, cosa che sinceramente mi sembra difficilmente condivisibile. Un'altra direttrice è quella di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quindi forse più coraggio nella direzione di una tassazione migliore per le piccole e medie imprese, penso a incentivi per la capitalizzazione, penso a sgravi sugli interessi passivi che ancora oggi vengono tassati, penso addirittura a ammortamenti liberi, così come penso che nel mondo degli autonomi ci stanno anche i professionisti, oggi tutti li vogliamo preparati ed efficienti e abbiamo ancora norme che prevedono la recupero a tassazione del 50% delle spese di formazione professionale continua che non sono più deducibili integralmente. Ecco, tutte queste cose secondo me sarebbero passi concreti, al di là degli slogan, per avviare da subito nella direzione auspicata, che noi auspichiamo, quella che dice, come dicevo all'inizio, è quella di un fisco tutto sommato leggero e sopportabile, ma al tempo stesso inflessibile dal punto di vista sanzionatorio. È stato chiarissimo. Grazie dunque a Claudio Siciliotti per essere stato con noi e per insomma averci dato la posizione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sulla riforma fiscale. Buonasera. Grazie a lei, un saluto agli ascoltatori. Un altro paio di posizioni prima di chiudere, dare la linea al meteo e poi per fare il punto di borsa sono quelle che arrivano dai sindacati. Innanzitutto Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, che dice la priorità del 2010 è difendere il lavoro, poi il fisco, ma forse la presa di posizione un po' più forte, un po' più importante è quella di Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, che propone un patto tra governo, opposizione e parti sociali per fare le riforme. Prima fra tutte quella fiscale. Il meteo ci sentiamo subito dopo. Le 17:38 minuti, 18 secondi, piccolo errore, abbiamo avuto un lieve problema tecnico con il meteo, quindi ve l'ho annunciato, ma insomma non lo avete sentito. La giornata di borsa. Andrea Fontana, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. A te e agli ascoltatori. Allora, una giornata di borsa anche oggi positiva, tutto sommato, nonostante insomma sia una giornata festiva, le cose sono andate piuttosto bene. Sì, una giornata diciamo non troppo movimentata, già inizialmente in mattinata ne ha contribuito a questo esito anche i dati americani sull'occupazione privata e sull'attività dei servizi, che non sono stati troppo brillanti, complice una giornata di festa, diciamo le borse hanno tenuto, ma senz'altro insomma non è stata una giornata particolarmente vivace, però Milano si è rivelata la miglior piazza continentale, ha guadagnato quasi lo 0,3% nel FTSE MIB. Insomma, miglior piazza continentale, anche se non è un granché. Nel frattempo dall'altra parte dell'oceano il Dow Jones guadagna lo 0,13%, il Nasdaq lo 0,06%, quindi insomma siamo piuttosto piatti anche là. Qualcosa di interessante emerge dai singoli titoli, bulgari su tutti, Andrea, un più 1,79%, come mai? Oggi una buona giornata sul settore del lusso italiano, oltre a Bulgari, anche Geox e anche Damiani, altri titoli appunto del settore del lusso si sono comportati bene. Oggi a muovere i titoli sono stati in particolare qualche report da parte delle case d'affari, qualche consiglio d'acquisto da parte di case d'affari in particolare americane. E per quanto riguarda Bulgari, Bank of America l'ha indicata tra i titoli con maggiore potenzialità appunto di crescita. In una giornata di scarse idee, diciamo così, scarsi movimenti, gli acquisti sono concentrati su Bulgari, ha guadagnato più 1,8%, Geox anche consigliata da Bank of America ha guadagnato l'1,2%. Brevemente gli energetici, Enel più 1,72%, ma appunto gli energetici sono stati un po' in movimento tutti quanti. I settori energetici e in particolare di quelli particolarmente esposti sul settore delle rinnovabili è un settore che si è dimostrato effervescente nell'ultima settimana. Enel con Enel Green Power ha firmato qualche giorno fa un accordo con Sharp e con ST Microelectronics per un impianto in Sicilia. Oggi ha fatto molto bene Enel, più 1,7%, ma anche le piccole società, quelle a minore capitalizzazione esposte sulle rinnovabili come RG Capital, Terni Energia, KR Energy e Pramac si sono comportate molto bene, hanno guadagnato tutte tra il 14 e il 25% oggi RG Capital. È un trend che negli ultimi giorni si è mostrato con evidenza, ha tirato molti acquisti, quindi molti volumi in acquisto e anche buone performance di crescita per i titoli. Andrea, infine una nota su Unicredit. Domani mattina ci sarà il CDA per decidere i termini dell'aumento di capitale. In particolare il mercato guarda la questione del prezzo delle emissioni delle nuove azioni, è già circolata qualche indiscrezione, si parla rispetto agli attuali corsi di borsa di uno sconto che inizialmente si pensava intorno al 25-30%, oggi qualche, qualche giornale parlava di uno sconto che potrebbe essere anche superiore, avvicinarsi al 35%, questo non è piaciuto molto al mercato. In attesa del CDA che tu ricordavi di domani mattina, il mercato ha penalizzato il titolo, che ha perso lo 0,85%. Benissimo, e naturalmente domani torneremo a parlarne. Grazie intanto ad Andrea Fontana e Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Un quadro finale di giornata: Saipem il titolo peggiore del listino, meno 1,43%, Lottomatica meno 0,92%, meno 0,8% circa, tanto per Unicredit quanto per A2A quanto per Ansaldo, Mediaset meno 0,69%, intorno al mezzo punto percentuale di ribasso Parmalat, Terna e Pirelli, meno 0,30%, Snam Rete Gas, Mondadori e Buzzi Unicem, cali frazionali intorno allo 0,10%, poco meno per Telecom Italia, CIR e Generali, lievemente in positivo oggi Mediobanca, Fondiaria Sai, Luxottica, Eni e Mediolanum, non ve li diamo perché sono insomma appena sopra lo zero come guadagno, Atlantia più 0,27%, Impregilo e Autogrill un guadagno di oltre lo 0,3%, Campari in guadagno di mezzo punto percentuale così come Exor e Tenaris, più 0,63% per Prismian e più 0,66% per Italcementi, uno 0,7% di guadagno per Finmeccanica, Fiat e la Popolare di Milano, Unipol più 0,88%, il Banco Popolare più 0,90%, sopra il punto percentuale di guadagno ST Microelectronics, Geox, UbiBank, Intesa San Paolo e il Monte dei Paschi, che guadagna 1,5% percentuale, euro che quota 1,4407 contro dollaro. E adesso parliamo della Banca Centrale Europea. E lo facciamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Beda. Buonasera. Allora, oggi il Sole 24 Ore pubblica un'intervista da te firmata a Jürgen Stark, che è componente del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, nella quale intervista si affrontano fondamentalmente due temi, ossia la politica dei tassi da parte della Banca Centrale Europea e dall'altra parte il tema della Grecia, che è un tema particolarmente scottante in queste ore. Del resto c'è la missione europea che in queste ore è ad Atene, insomma, per dare un pochino una verifica ai conti. Beda, che cosa dice Stark sul fronte dei tassi? Ma credo che sul fronte dei tassi di interesse l'analisi di Jürgen Stark, che è membro del comitato esecutivo della banca e quindi membro anche del consiglio direttivo, è fondamentalmente che i tassi rimarranno stabili nel futuro prevedibile, perché Stark è cauto sull'andamento della ripresa economica, si rende perfettamente conto che c'è, ma si rende anche perfettamente conto che si basa su fattori in parte almeno temporanei, come gli aiuti all'economia da parte degli Stati membri. Quindi c'è cautela sul fronte della crescita e c'è da parte di Stark molta tranquillità sul fronte dell'inflazione. Addirittura Stark parla di un elevato grado di stabilità dei prezzi nella zona euro e quindi non vede preoccupazione, non vede motivi di preoccupazione sul fronte dell'inflazione da qui alla fine del 2011. Il caso greco, Beda Romano, in sostanza Stark dice: noi non possiamo dare una mano ad Atene. Sì, lui dice l'Unione Europea non può dare una mano ad Atene. Lo dice citando i trattati europei che stabiliscono naturalmente che i paesi non possono farsi carico degli impegni finanziari di uno Stato membro. Questa è la posizione tradizionale sia di Stark che di una fetta importante dell'establishment tedesco. L'establishment tedesco mette molto l'accento su questo aspetto e su questo articolo dei trattati per un motivo molto semplice. Il timore di una fetta dell'establishment tedesco è che se l'Unione dovesse aiutare la Grecia, il rischio è di assistere a un effetto domino. Altri paesi infragiliti dalla crisi economica potrebbero in certo modo evitare le misure necessarie per ridurre i deficit e quindi affidarsi anche loro alla buona volontà dei paesi membri più ricchi e più forti. Questo è il forte timore di Stark è il forte timore di molti in Germania, ma è un timore per molti versi, come dire, teorico, non legato alla pratica in un certo senso. Grazie dunque a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, per questi chiarimenti. Tra poco parleremo di un altro paese che è stato reso più fragile dalla crisi, ossia l'Islanda, che è sotto i riflettori, come si diceva, perché ha deciso in sostanza di non pagare alcuni debiti. 349-238-6666 per i vostri sms, la viabilità, ci ritroviamo subito dopo. Allora, qualche sms raccoglie consensi abbastanza unanimi l'intervista che abbiamo fatto col presidente dei dottori commercialisti ed esperti contabili Claudio Siciliotti. Ci scrive ad esempio un ascoltatore: sono un piccolo libero professionista, complimenti, concordo pienamente con lui. Poi ci segnala Giovanni che la puntata ieri di Focus Economia non è ancora online, questo lo segnaleremo ai nostri tecnici naturalmente, insomma, e faremo in modo che sia online quanto prima. L'ascoltatore Adriano che ci chiede se Unicredit arriverà a 5 euro, insomma, non è nostro costume indicare i target price, per quello ci sono le banche d'affari. Le posso dire però che comunque domani, dopo che il CDA di Unicredit avrà deciso sull'aumento di capitale, il CDA è previsto per le 9:30 del mattino, sicuramente nella trasmissione di domani ne parleremo. E adesso ci occupiamo di Islanda. Venerdì prossimo, assemblea straordinaria del Parlamento islandese per decidere se tenere un referendum il prossimo 20 febbraio, dopo il veto posto dal presidente Olafur Grimson sulla restituzione di 5 miliardi di dollari agli investitori britannici e olandesi. Quali soldi sono questi 5 miliardi di dollari? Sono quelli conseguenza del fallimento delle banche nazionali Landsbank e Ichsave. Nei mesi scorsi una serie di comitati aveva avviato una petizione per bloccare la restituzione dei fondi al grido "non pagheremo gli errori delle banche". Hanno raccolto le firme di un islandese su 4. Gli ultimi sondaggi rivelano che il 70% della popolazione è d'accordo con la scelta del presidente. Ne chiediamo conto e diamo la buonasera a Tora Arnorsdottir, giornalista della TV nazionale islandese. Buonasera, Tora. Buonasera. Allora, la situazione a questo punto, insomma, sembra che si vada verso un referendum per questa vicenda. Sì, però vorrei all'inizio dire che il presidente non è che abbia detto "non pagheremo". La storia è che il filiale della banca Landsbank, che ha aperto sia in Olanda sia in Inghilterra, è fallita, è stata nazionalizzata, e anche il fondo dell'assicurazione che avrebbe dovuto rimborsare tutti i risparmiatori era quasi vuoto. E quindi il governo islandese ha deciso che bisogna pagare questi 5 miliardi di euro. Allora hanno cominciato di negoziare, hanno cominciato un discorso con gli olandesi e gli inglesi. Comunque l'accordo che all'inizio che hanno tornato con l'accordo era cattivissimo, e il Parlamento ha fatto qualche cambiamento che gli inglesi e gli olandesi non hanno accettato. Che vuol dire che hanno ricominciato di negoziare, e quel accordo è stato passato dal Parlamento il 30 dicembre. Comunque, siccome così tante persone hanno segnato questa petizione, non è per non pagare, ma è per dire che questo accordo è troppo pesante, con interessi di 5,5%. Questo non possiamo pagare senza far crollare la nostra società. Quindi, vogliamo pagare, ma non possiamo pagare così tanto in così corto tempo. Benissimo, quindi la sostanza, il tentativo da parte dell'Islanda è quello di pagare meno, o quantomeno di pagare dilazionando un pochino di più nel tempo questi pagamenti. Ma probabilmente quello che si stanno chiedendo in Gran Bretagna e in Olanda è se questi soldi li vedranno mai. Tu che impressione hai? No, assolutamente. è stato fatto un accordo e il governo ha deciso di, anche se ci sono dei dubbi legali, se il governo o lo Stato deve rimborsare i soldi di una banca privata che è fallita, comunque è stata fatta la decisione politica di rimborsare questi 5 miliardi di euro. Comunque siamo un paese di 300.000 persone, che vuol dire che per noi questi soldi, 5 miliardi di euro, sono tantissimi, quindi si vuole un po' di tempo, si vuole magari 20 anni per rimborsare. E con siccome l'Inghilterra e l'Olanda, loro hanno già rimborsato questi risparmiatori, quindi dobbiamo ripagare al governo inglese e olandese. È solamente una questione di accordo, come pagare, non se pagare. Benissimo, dunque vedremo che cosa succederà anche su questo fronte. La notizia di giornata, tra l'altro, è che Standard & Poor's, già ve lo dicevamo in apertura, si avvia ad un possibile taglio del rating entro un mese per l'Islanda. Anche su questo fronte vedremo cosa succederà. Intanto ringraziamo Tora Arnórsdóttir, che è giornalista della TV nazionale islandese. Buonasera. E passiamo a parlare di settore alimentare, in particolare di Kraft, insomma della vicenda Kraft Cadbury. Ieri ve ne abbiamo parlato in apertura perché c'era qualche aggiornamento importante, anche oggi ce ne sono. Ieri Kraft ha venduto a Nestlé per 3 miliardi e 700 milioni di euro la divisione pizze surgelate ed utilizzerà i proventi per rafforzare l'offerta su Cadbury. Nel frattempo questa non la medesima offerta, ma insomma l'offerta precedente è stata raccolta solo dall'1,5% degli azionisti di Cadbury, insomma abbastanza pesante. Nicole degli Innocenti del Sole 24 Ore da Londra, buonasera. Buonasera, sì, Kraft sembra non aver convinto per nulla gli azionisti di Cadbury per adesso, che sembrano concordare con quello che ha detto più volte il consiglio di amministrazione del produttore di cioccolato britannico, cioè che ha definito irrisoria la proposta di takeover di Kraft e troppo basso il prezzo offerto. Questo è il quadro. Quali sono le prospettive a questo punto? Perché abbiamo letto anche dalle colonne del Sole 24 Ore di oggi che c'è una Ferrero pronta a rilanciare, ci sono notizie secondo le quali il CDA di Hershey invece si sarebbe diviso sul fronte per l'offerta per Cadbury. Insomma, sembra tutto ancora in movimento. Sì, è decisamente una situazione in evoluzione, le prospettive sono due e per questo anche molti azionisti di Cadbury ancora non si decidono, perché attendono appunto gli eventi. Le prospettive sono due: una è che Ferrero, che ha già detto di essere interessata, si possa alleare con l'americana Hershey, che però appunto, come dicevi, è molto divisa al suo interno, e con il sostegno forse di un grosso gruppo del private equity, si è parlato di Blackstone, di un private equity americano, possano trovare le forze necessarie, perché due imprese ovviamente molto più piccole rispetto a Kraft, di fare un'offerta rivale per conquistare Cadbury. Tra l'altro Cadbury ha già fatto sapere che accoglierebbe con piacere un'offerta di Hershey, perché sono due gruppi, ha detto, dalla cultura simile, mentre appunto è decisamente contraria a Kraft. L'altra ipotesi ovviamente è che Kraft invece riveda in modo più serio, a rialzo, l'offerta fatta e quindi metta più contanti sul piatto di quanto ha fatto finora. La revisione annunciata ieri era molto limitata, diciamo, e non sufficiente. Secondo gli analisti si deve andare almeno 820 p per azione, l'offerta oggi ne vale circa 760 pence per azione, quindi dovrebbero offrire più soldi per convincere gli azionisti di Cadbury. Bene, grazie anche a Nicole degli Innocenti che ci ha aggiornato sulle vicende di Kraft e Cadbury. Anche queste sono in evoluzione naturalmente, insomma andremo a vedere che cosa potrà succedere nei prossimi mesi. Insomma, interessante anche su questo fronte la posizione della Ferrero e, come vi abbiamo raccontato ieri, interessante anche la posizione di Nestlé, che per il momento ha deciso di rimanere alla finestra, vedere un pochino che cosa succede e magari prendersi qualche pezzo di Cadbury, se non alleare a qualcun altro, per comprarla. Sono le 17:58 minuti e 10 secondi. Termina così anche questa puntata di Focus Economia. Grazie a Barbara Bianchi in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Vi lascio al giornale radio e poi allo speciale su questa giornata di campionato. A domani. Radio 24. La passione si sente.